Incontri di Gianfranco Fabi. We have on the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica. Con queste note di Louis Armstrong iniziamo oggi l'incontro con Alessandro Ortis. Buongiorno, dottor Ortis. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Alessandro Ortis è presidente da 7 anni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Perché Louis Armstrong? Beh, questa canzone in particolare, perché è una canzone che ti aiuta veramente a navigare nello spazio e nel tempo. E la trovo dolcissima e... ed è la mia preferita. Lei tra qualche settimana lascerà l'Autorità per l'Energia, poi ne parleremo sicuramente, però un giudizio iniziale, la lascia con tranquillità, sicuro di aver fatto il suo dovere? Si lasciano le cose, i lavori, sempre con qualcosa di incompleto. D'altra parte io dico sempre, sarebbe anche non giusto non lasciare a chi ti segue qualcosa da fare, altrimenti che c'è da fare? E c'è molto ancora da fare, ma comunque sono 7 anni che sono serviti a un percorso che ha portato certamente dei risultati. E siccome in fondo, in definitiva, la missione è tutela dei consumatori, oltre che promozione della concorrenza, va da sé che questo lavoro è senza fine, perché certo, noi consumatori, noi cittadini, giustamente abbiamo un crescente anche perché... attenzione alla qualità, certo, alla tipologia dei servizi, e quindi è bene che questo percorso continui. Lasciando questo mestiere, però, mi preme rispondere più compiutamente ancora alla sua domanda. Beh, certamente si lascia un servire il proprio paese in condizioni per me molto positive, perché in fondo aver avuto la missione istituzionale di servire in termini di promozione della concorrenza e tutela dei consumatori per uno che è un convinto sostenitore dell'economia liberale è certamente un bel lavoro, un bel impegno professionale e mi è piaciuto moltissimo, mi piace moltissimo. Lei tra l'altro ha vinto proprio nelle scorse settimane il premio di Istituto Bruno Leoni, che è un think tank molto liberale, e quindi aver visto questo premio consegnato a un regolatore del mercato è in fondo indicativo che il mercato regolato può essere anche qualcosa di positivo in fondo. Ma volevo, come un po' tradizione anche di questo programma, parlare di Alessandro Ortis anche prima. Qual è stata il suo cammino? Come è arrivato poi a Roma a fare il presidente dell'Autorità per l'Energia? Quali sono stati, diciamo, 2 o 3 punti fondamentali della sua vita? Partito dal Friuli, sono andato alla Nunziatella, alla Scuola Militare di Napoli, che veramente è stata per me molto utile. E poi sono stato catapultato al Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, in particolare settore energetico, col famoso professor Silvestri, e lì la passione per l'energia, per l'ingegneria, e poi un percorso professionale come manager in una serie di aziende private, fino poi ad approdare alla vicepresidenza dell'Enel, quindi un rientro nel settore energetico a tutto campo, poi ancora direttore generale al Ministero per la parte energia. Ecco quindi il passaggio abbastanza naturale all'Autorità per l'Energia. Ecco, ma da piccolo cosa avrebbe voluto fare da grande? Il caporale o il generale? Poi mi sono convertito all'intenzione di fare l'ingegnere, e per cui ecco, il primo amore è stato questa assonanza tra caporale e generale, e poi in realtà con gli studi, con la passione per la matematica. Ricordo una maestra bravissima che mi ha dato la passione per l'aritmetica, ecco che poi sono andato sulla strada della formazione a carattere tecnico-manageriale. Ecco, però questa esperienza della Nunziatella le è rimasta, in fondo lei è molto legato ancora a quell'ambiente, e un po' di spirito militare le è anche rimasto nel fare poi le sue esperienze successive. Per me è stata un'esperienza importante e un'esperienza che mi ha legato con un grosso debito di gratitudine per quell'istituto, dove si vive in una dimensione di disciplina militare che in fondo genera una cosa importantissima, l'autodisciplina. è un'istituzione, peraltro la più antica in Europa e nel mondo, fra quelle ancora in servizio, e aiuta anche a cementare fra ragazzi di varie regioni d'Italia, perché andando a Napoli ho visto l'altra parte della Luna, e quindi il resto del mio paese. Quindi una visione unitaria, lì è rimasto un po' di nostalgia del Friuli, però vivendo tra Napoli, poi Milano, poi Roma. È nostalgia mantenuta anche nei rapporti, perché sono ancora iscritto all'Ordine Ingegneri di Udine, al Rotary Club di Udine, mantengo i miei rapporti con gli amici udinesi, ho mia sorella che vive a Udine. Cioè, tifa per l'Udinese magari. Udinese e Napoli, il dramma è quando si devono incontrare, e allora l'augurio è sempre naturalmente che venga il migliore, possibilmente ognuno a casa sua. Quindi in questa esperienza ha dato un po' un senso dello Stato, dell'unità dello Stato, dicevamo, e anche dell'essere un servitore dello Stato, cosa che lei ha messo in rilievo proprio come sua esperienza in questi ultimi anni. Qualcosa che forse meriterebbe di essere sottolineata in questa fase un po' complicata della vita nazionale. Beh, è una fase che chiama tutti all'impegno, è una fase difficile per tutti, abbiamo famiglie in stato di disagio, abbiamo la necessità di recuperare competitività paese, in particolare anche nel settore energia, ma in molti settori, e in tempi difficili è evidente che ognuno di noi deve dare il massimo con generosità. Sono sicuro che ce la faremo, abbiamo poi un contesto, quello europeo, che anch'esso è impegnativo, allo stesso tempo entusiasmante, siamo collocati in un'area del mondo, quella del Mediterraneo, poi che ci apre le porte a rapporti molto interessanti e nuovi con il resto del mondo, e dunque io credo che l'impegno che ci viene richiesto come cittadini di questo paese, d'Europa e in fondo del mondo, valga la pena per impegnarci seriamente. Beh, questo è un discorso che i giovani dovrebbero appunto recepire. Lei ha fiducia nei giovani? Certamente, anzi, qualche volta se mi capita di poter fare degli incontri, specie in qualche università o in qualche seminario, lo faccio molto volentieri, anche perché dai giovani si impara parecchio. Io di solito faccio questi incontri con una brevissima introduzione, perché mi piace molto che si accenda il dibattito, e durante il dibattito si ricevono delle domande che davvero impegnano molto e ti sfidano anche a riflettere poi, dopo questi incontri, sulle attività che ognuno di noi fa. E nelle attività che ognuno di noi fa, credo che l'elemento più delicato, più importante, sia quello della formazione dei giovani collaboratori, la selezione, la formazione, l'incoraggiamento, la motivazione. E questo, come dire, rappresenta uno degli elementi più delicati del management. Lei ha detto in una recente intervista ai giovani: scegliete la strada che vi entusiasma di più. Cioè recuperare un entusiasmo, recuperare anche un po' il senso del rischio, forse. Si sta affievolendo, c'è più la ricerca di garanzie che non di rischiare. Sì, effettivamente chi si siede sull'attesa di essere solo protetto non riesce a sfidare se stesso nella professione, nello studio, come invece merita. Ognuno di noi ha dei potenziali enormi. Tutti possono dare parecchio, si tratta di scegliere, come dire, il filone giusto, il tasto giusto per poter esplicare queste potenzialità, e quindi ecco perché vale la pena di meditare su quello che si vuol fare e poi buttarcisi a capofitto con la dovuta naturalmente flessibilità. E questo anche perché l'Italia ha molte risorse, soprattutto nei giovani, soprattutto nelle università, che magari hanno difficoltà ad esprimersi, l'immagine rischia di essere spesso peggiore della realtà. Ma noi, si sa, siamo un paese di modeste risorse, come dire, materiali, ma certamente abbiamo una ricchezza enorme di risorse intellettuali, a partire da quelle culturali. E fra le risorse più importanti certamente c'è la gente d'Italia, con la propria fantasia, con la propria capacità di innovazione, innovazione molto importante proprio in questa fase dell'economia mondiale, e quindi io credo che mettendo a profitto con una qualche autodisciplina, qualche organizzazione del lavoro di gruppo e con un supporto di una efficace formazione assorbita con intensità, possiamo immaginare che questo paese possa davvero esprimere sul piano intellettuale, professionale, mondiale le eccellenze. Mi sembra un messaggio importante questo di Alessandro Ortis, presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica. Incontri. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. E con queste note di Louis Armstrong riprendiamo il nostro incontro con Alessandro Ortis, presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas, presidente dal dicembre 2003, quindi lascerà il suo incarico nelle prossime settimane. Alessandro Ortis, un po' di rimpianto. Fra breve si conclude un ciclo giustamente limitato e non rinnovabile. Rimpianto è legato al fatto che il lavoro che mi è stato affidato è stato davvero molto bello e entusiasmante. In realtà io in questi 7 anni sono stato circondato e aiutato da dei collaboratori d'eccellenza, e questo fa l'autorità. Io trovo che nei miei collaboratori, nei professionisti e nelle professioniste che fanno di fatto l'autorità, ci sia un senso istituzionale profondo, davvero c'è il senso di fare un lavoro che serve al paese, e questo aiuta molto nell'operare giorno su giorno su materie peraltro molto difficili e che impegnano anche con rapporti non facili col mondo esterno, certo. Quindi mediare tra gli interessi degli operatori, delle aziende, delle imprese e quelli dei consumatori che vanno assolutamente tutelati, significa affrontare delle problematiche e assumere delle decisioni impegnative. Ecco, il presidente dell'autorità non è rinnovabile, questo anche perché deve gestire l'autorità non per farsi rinnovare, ma a servizio appunto dei consumatori. Questo per sottolineare l'indipendenza e l'autonomia, infatti, dell'autorità. Io direi che il meccanismo che è stato adottato in Italia, che fa da bench di fatto a livello europeo, di un mandato secco di 7 anni non rinnovabile, con l'impossibilità peraltro per 4 anni successivi di operare nel settore, aiuta moltissimo a garantire la necessaria indipendenza e autonomia di un'istituzione dello Stato molto delicata. Certo, perché il mercato dell'energia elettrica e del gas è un mercato che ha bisogno proprio di regolazione, perché non può essere un mercato in cui, come dicono i manuali di testo, ha infiniti produttori e infiniti consumatori. I produttori sono necessariamente pochi. Ma l'ha detto bene lei, è un mercato che deve essere mercato, quindi non può essere una savana selvaggia dove chiunque possa operare in qualsiasi modo con licenza di qualsiasi cosa. Quindi un mercato, come diceva peraltro Einaudi, è un mercato quando ci sono anche delle regole, e oltre alle regole c'è il rispetto delle medesime regole. L'abbiamo visto anche con la crisi del sistema finanziario che ne scatola la crisi globale negli Stati Uniti, ove si è detto che l'inizio è stato proprio generato da bad regulation, scarsa e non adeguata regolazione. Quindi buone regole e buoni regolatori. Monitoraggio del mercato, farle rispettare, se del caso, ahimè, anche con sanzioni e prescrizioni. Quindi ci vuole un regolatore indipendente che sia sempre attento e pronto a seguire l'evoluzione. Ecco, l'Autorità per l'Energia ha molte competenze: tariffe, qualità del servizio, forme di mercato, concorrenza, concessioni, separazione contabile, verifica e controllo, reclami, istanze, risoluzione di controversie, informazione e trasparenza. Un po' tante. Ma in fondo, se lei le ripercorre, queste rientrano nelle due missioni di cui accennavo all'inizio, cioè sostanzialmente si tratta di promuovere la concorrenza e tutelare il consumatore. Allora, quando noi pensiamo alla tutela del consumatore, pensiamo subito alla necessità di garantire di fatto ai nostri concittadini delle scelte libere, consapevoli e protette e convenienti. E il potere dei consumatori è uno strumento pool veramente forte, è quello che ci consente davvero di sostenere un continuo efficientamento del mercato. Quindi la vera libertà di scelta, il vero potere dei consumatori trascina efficienza, sana competizione fra le imprese e in definitiva competitività del sistema, dove operatori validi, capaci, sanno confrontarsi e sanno anche offrire quella che noi chiamiamo un'adeguata customer care, un'adeguata attenzione ai bisogni dei consumatori, che nel settore dell'energia chiedono sostanzialmente servizi a prezzi convenienti e qualità dei servizi sempre migliore. Qual è stata la decisione in questi 7 anni che le è costata di più e che magari che le ha dato anche più soddisfazione per essere riuscito a imporla? Guardi, quella che costa di più è sempre quella di fare un aumento dei prezzi. Le assicuro che nei trimestri trascinati dai picchi dei prezzi petroliferi, ineluttabilmente verso degli aumenti, sono i momenti più tristi. Ma fortunatamente abbiamo sempre avuto un dialogo molto aperto con l'associazione dei consumatori e anche in quelle circostanze, come dire, andiamo a fondo sul perché e il per come. Queste, direi, sono le decisioni fondamentalmente più difficili. Quelle più soddisfacenti sono quelle che portano a vedere il risultato di una norma introdotta, di una nuova regola e quindi di una nuova delibera che effettivamente genera dei risultati concreti. Per esempio, ecco, una soddisfazione è certamente nel constatare che in 7 anni attraverso la maggior liberalizzazione ed efficienza del mercato elettrico abbiamo portato a casa come minori costi per i consumatori 4,5 miliardi di euro. E questo perché sono diminuite le tariffe dei sistemi a rete, quindi delle infrastrutture a monopolio tecnico, e la pressione della concorrenza ha concorso a questi 4,5 milioni per il 60%. Ecco, questa è una soddisfazione. Ecco, sul mercato del gas qualche problema in più? Ah, non c'è dubbio che ci sono ancora dei problemi, perché in effetti il mercato elettrico è più avanzato, è più efficiente, altro si può fare, si deve fare, ma il mercato del gas è certamente molto più in ritardo in termini di efficienza di mercato e in termini anche di sviluppo infrastrutturale per consentire di approfittare anche delle evoluzioni positive che pure si notano sul mercato internazionale del gas. Qualche polemica c'è anche stata tra lei e gli operatori del settore? Ma sa, un regolatore, un'autorità di regolazione sa ben dal principio che sta intervenendo, talvolta incidendo, come giusto anche, su anche legittimi interessi delle aziende e dei loro azionisti, interessi che evidentemente non coincidono sempre con quelli dei cittadini. Quindi va da sé che alcune norme, alcuni interventi incidono e non fanno piacere agli operatori. Quanto alle polemiche, da me non sono mai state raccolte, perché un'istituzione non polemizza. Un'istituzione è impegnata, è richiesta di assumere decisioni, anche quando queste sono difficili da assumere, senza polemiche e facendo il proprio dovere. Ecco, da tecnico dell'energia e anche da appassionato del settore energetico, l'Italia ha ancora comunque dei passi in avanti da compiere, ancora una larga dipendenza dall'energia, una larga dipendenza dall'estero, una ricerca di un migliore assetto del settore comunque fa parte delle politiche energetiche, che magari non sono compito dell'autorità, ma sono compito della politica in senso più vasto. Non c'è dubbio, noi dobbiamo recuperare in competitività del sistema energetico paese e anche l'Europa in generale, ma l'Italia in particolare deve risistemare il proprio mix delle coperture e, come lei diceva giustamente, ciò è materia di politica energetica e del Parlamento, del governo, non del regolatore. Non c'è dubbio comunque che noi dobbiamo portarci a un mix delle coperture meno petrolio dipendente, quindi meno vulnerabile, meno esposto alle importazioni, meno dipendente dall'estero. Naturalmente noi dobbiamo fare anche altro, dobbiamo sviluppare le infrastrutture e poi dobbiamo continuare a lavorare costantemente a un miglioramento dell'efficienza del mercato e dell'efficienza energetica. In gergo si può dire risparmio energetico. Ecco, su questo noi abbiamo insistito parecchio anche con meccanismi di mercato come i certificati bianchi, perché una sorgente virtuale, ma ipervirtuosa, è proprio l'uso razionale dell'energia. Su questo può fare la politica, può fare il regolatore e possiamo fare noi cittadini singolarmente, perché comportamenti che noi adottiamo a casa o nel posto di lavoro, apparecchiature, che so io, elettrodomestici piuttosto che impianti industriali che scegliamo anche con un criterio di risparmio energetico, ci portano dritti per dritti a vantaggi immediati, perché il risparmio energetico fa bene alle tasche subito, fa bene alla bilancia energetica del paese perché ci aiuta ad esporci meno alle importazioni e alla dipendenza dall'estero, e poi in definitiva fa bene all'ambiente perché ci aiuta a tutelare meglio l'ambiente. Ecco, in questa prospettiva siamo purtroppo in conclusione del nostro dialogo. Tra poco lascerà appunto al suo successore l'incarico di presidente dell'autorità. Qual è la cosa che dirà come priorità per chi succederà nella sua poltrona? Ma io credo che le cose in sé di per sé consiglino dei percorsi, in fondo di una qualche continuità, perché un continuo efficientamento del mercato è senza fine. E quindi si deve lavorare con continuità, richiede monitoraggi, richiede controlli, eccetera. Lo sviluppo delle infrastrutture di cui il Paese ha ancora necessità richiederà un affinamento continuo dei sistemi tariffari, degli standard per la qualità tecnica, dei meccanismi di mercato che aiutano questo percorso, anche i meccanismi che promuovono l'uso razionale dell'energia. Quindi, voglio dire, è nel percorso teso a guadagnare la incompetitività di sistema che inevitabilmente richiederà interventi di questo tipo, sempre nella linea della missione di sempre, quella di legge per l'autorità: promuovere la concorrenza e tutelare i consumatori. E in questa prospettiva anche Alessandro Ortis, dopo una pausa di riflessione che lasciamo, comunque sarà sempre a disposizione del Paese, lo ritroveremo probabilmente in qualche altro posto. Ma io l'ho già detto, intanto comunque ritornare a studiare, e ritornare a studiare significa eventualmente immaginare qualche contributo, come dire, culturale nella direzione del miglioramento continuo del sistema energetico paese, e certamente avremo senz'altro la possibilità di esprimerci anche in futuro. E ci incontreremo magari non solo nelle piste da sci. Benissimo, sulle Dolomiti. Grazie mille, grazie ad Alessandro Ortis, presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas, che ci ha fatto compagnia in questo pomeriggio della domenica. Ringraziamo anche Carmelo Larricella in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.